Si segnala ai responsabili della sicurezza che il passeggero Gianluca Nicoletti viaggia da settimane in ogni treno possibile. Quando arriva a destinazione sale nuovamente su un altro convoglio e riparte, apparentemente senza meta. Non sembra pericoloso, ma durante il viaggio cambia spesso scompartimento, intrattiene strane conversazioni con altri passeggeri, a volte legge, spesso telefona. Riceve messaggi al suo computer e sembra che il tempo non abbia per lui valore. Alcuni informatori riferiscono che alla fine del suo viaggio scombinato, ad aspettarlo, ci sia una donna. Quale rapporto lo leghi a tale donna, dalle nostre fonti, non è stato specificato. In ogni caso continuate a seguirlo, mentre il treno va. Il treno va. Perché c'è sempre una donna che aspetta dove terminano i binari. Un programma di Gianluca Nicoletti e Fabrizio Intonti. Dopo mesi e mesi che non mi capitava più di incrociarla, vedo Lady Pink. La ricordate Lady Pink? La conturbante ricercatrice dell'uomo ideale. Poi in fondo è un ruolo in cui si producono gran parte le viaggiatrici che mi capita di intervistare, ma colei che lo fa fasciata completamente di vestimenti rosa, di accessori rosa, di occhiali rosa. Rosi sono persino i suoi pensieri e roso è l'oggetto innominabile che, sulla quale la vedo armeggiare al riparo della sua ampia borsetta sempre rosa. Da cosa è attratta Lady Pink? Quale misteriosa tecnologia virante a rosa tiene nascosta in quella borsa rosa? Beh, non posso fare a meno di chiederglielo. Sì, ma oggi il richiamo alla tecnologia vedo che ti attizza molto, capito? Guarda, ci sono delle situazioni veramente, anche per me, cioè, oddio, non è che abbia tutta questa cultura, però sorprendenti. Pensa che ho scoperto queste palline vibranti a distanza. Benvenuta, esistono da anni, esistono. Ma con la tecnologia wireless, cioè sì. Tu sei a Pechino e io non lo sapevo. Vabbè, e via, cani cattivi, cioè una vibrazione in atto attraverso un'applicazione. Cioè tu scarichi. È chiaro, metti un'app. Sei geolocalizzata innanzitutto dall'app. Una volta ti ha geolocalizzato l'app, geolocalizzato interviene sull'oggetto, sulla tua protesi interna e può gestirla a distanza. Beh. Sì, ma non solo quello. In base a determinati suoni esterni, quindi che può essere la voce del tuo compagno piuttosto che una musica particolare, eccetera, ci sono anche le vibrazioni tra virgolette indotte dai suoni. Ma tu questa meraviglia tecnologia te l'hanno regalato o te l'hanno proposta? E sta per arrivare. Amazon fa veramente un servizio. L'ha ordinata via Amazon. Sì, ma funziona così, però che io sappia. Tu poi qualcuno deve scaricarsi l'app nel suo telefonino e comandare a distanza al tuo piacere. Esatto, questo è. C'è anche quello a breve distanza, è che. C'è un filo, com'è? Telecomandato a filo? No, cioè non sta a pochi metri di distanza. È come un telecomando del televisore. Bravo. Lì che fai? Cambi canale, cambi velocità, cambi intensità. Esatto. Quella l'hai provata? È abbastanza. Vabbè, quella già ce l'hai, è ormai roba vecchia, dai. È roba vecchia, insomma. È come avere il telefono attaccato al filo al muro ancora, dai, ma chi ce l'ha? Sai quelli in bacchellite, quelli neri, bellissimi. Poteva essere anche una cosa vintage, però interessante. Vabbè, però vedi, metti caso, adesso tu la vedi sempre come eccentricità. Metti una famiglia occupata, uno deve lavorare, stare davanti a un computer, così non è che può sempre occuparsi della compagna. In quel caso si sta vicini, uno lavora e pur lavorando concede qualcosa all'altro della sua immaginazione, anche se semplicemente muove il pulsante di un telecomando. Cioè, schiaccia invio e vai, cioè ogni tanto tra un'operazione sul computer e un giro alla macchinetta del caffè schiaccia invio. E lì è quella là dall'altra parte del mondo si vibra. Quindi adesso arriveranno le palline dell'amore elettroniche che funzionano con tecnologia wireless. Quindi esatto. È Ma tu adesso cosa fai? Scusa, apri un profilo Facebook e metti le credenziali per entrare nel sistema? Non so, cosa fai? O la dedichi come un atto d'amore esclusivo a una sola persona? Ti do la password per le mie palline dell'amore. È così. Assolutamente, è quello. No, visto che me lo regala lui, per cui. Ah, lui te la regala, perché lui sta, certo. Lui sta molto lontano da te. Sì, sta abbastanza lontano. Beh, abbastanza lontano. Certo, gli uomini veramente sono pieni di un'illusione. Questo per salvaguardarsi dalle corna ti manda le palline a distanza. Cioè, mi sembra. Poveraccio, se così lo fa contento. Beh, diciamo che la tecnologia a volte aiuta, a volte non è un grande aiuto, anche perché poi nascono queste relazioni che io definisco alla relazione PlayStation, no? Dove praticamente accendi il giochino, ci giochi un po', poi la spegni, la metti lì, poi lasci stare 2 o 3 giorni, hai superato il livello, poi lo riprendi e ci giochi. Beh, io sai che farei, taglia a metà un cocomero, ci metti le palline dentro, i telefoni, caro, sono pronta, e poi te ne vai a spasso e lo lasci divertire con i semi del cocomero. Ma se è tutta una situazione anche di applicazione col cellulare, ecco, quindi. Beh, tu gli mandi una foto macro delle palline dentro il cocomero, mica vede la differenza, dai. Non lo so, comunque la tecnologia aiuta, ma anche ci. No, danneggia, per me danneggia. Il campo delle relazioni è un'arma a doppio taglio, perché assolutamente. Sì, ti fa sentire vicino a una persona nel momento in cui la vuoi sentire vicina, ma te la fa sentire vicina anche quando vorresti che non ti sentisse molto vicino a lei, capito? E questo è il problema. Ma guarda, io sono arrivata al punto di bloccare su WhatsApp, questa cosa mi ha fatto abbastanza specie, come i ragazzini, no? Boh, basta, ti blocco. Però ti devo dire che a distanza di qualche giorno ho fatto questa riflessione, dico, caspita, differenza tra l'SMS e il WhatsApp, cioè WhatsApp è veramente estremamente invasivo, invece l'SMS c'è probabilmente ancora un galateo inconscio che ti permette di utilizzarlo con maggior delicatezza, se vuoi, o quantomeno con maggior riguardo. Invece WhatsApp, papam, papam, papam, ti massacrano. E invece ti dico che facendo questa operazione di bloccaggio. E poi diventa un atto preciso, una presa di posizione, quello è il problema. Quando tu blocchi una persona che comunque ha un contatto aperto con te, è un atto ostile che crea comunque delle reazioni, che magari è anche superiore a quello che tu vorresti, semplicemente che una persona non ti intercettasse, capito? Quindi allora togli innanzitutto l'orario di connessione, però non vedi più nemmeno quello degli altri, e a volte può essere utile vederlo. Come vedi, hanno una profonda etica questi mezzi. Non vuoi essere visto, ma gli altri nemmeno vedono te, e quindi cominciamo ad aprire dei problemi. Mi tolgo, non mi tolgo, ci sono 10 persone che ho necessità anche importante che mi vedano quando sono collegato, e ce n'è una che non voglio farglielo sapere. Come fai? È un bel problema. Si avvertono i signori passeggeri che il treno effettuerà una breve sosta per le informazioni sul traffico. Restate in ascolto. Il treno va. Bentornati a bordo, i viaggiatori in ascolto, interessati a fare una chiacchierata sul nostro treno o a sottoporre una vicenda personale, sono pregati di scrivere all'indirizzo mail iltrenova@radio24.it. Ogni azione ha una reazione comunque. Tu, chiaro, se blocchi un tuo fidanzato o appassionato, quello te lo trovi sotto casa, o ti diventa un nemico giurato che magari nemmeno quello tu volevi. Ecco, e quindi l'alternativa a questo è bloccare e farsi mandare delle palline, appunto. Sì. È l'unica soluzione, così almeno evitiamo anche il contagio. Sì, però scusami, questa è una cosa che mi interessa. Allora, i regali importanti dati durante un fidanzamento si restituiscono, anelli, gioielli, orologi, perché questo almeno una volta era nella prassi, oggi non so come funzioni. Le palline d'amore regalate da un fidanzato, quando finisce il fidanzamento, cosa succede? C'è una password che le disattiva per sempre, quindi dice teleblocco e nessuno le può, oppure quelle lì rimangono, quindi è un numerello, tu cambi password e la metti in gioco con qualcun altro. È chiaro. E tanto le palline sono quelle, non è che l'applicazione è quella. Sì, però sono legate, sai. I momenti che abbiamo passato assieme con queste palline, come fai a dimenticarli? Questo ti direbbe. Come puoi con un altro usare le stesse palline che hai usato con me? Io stavo a Timbuktu e ti mandavo quegli sms che te le facevano vibrare così tanto. Chi sarà mai capace di far vibrare quelle palline come le faccio vibrare io? Capisci che c'è tutto un nuovo lessico amoroso che improvvisamente esplode su queste palline. Ecco, non è il mio lessico, purtroppo, sono troppo giurassica, a me piace ancora il contatto, mi piace ancora guardarsi. Sì, negli occhi, sì, ma ti compri le palline su Amazon, però. Ah no, non me le compro, io. Beh, me le fai regala, cioè ci sto che poi mi divertono, e che cacchio, però deve essere comunque un'evasione rispetto a quello che può essere un rapporto tra virgolette normale. Vabbè, ci sono persone, allora te la dico diversa, di estremissima delicatezza e buon gusto, che quando cambiano compagno di letto, cambiano materasso, ordine dei mobili, abat-jour, per non riavere la stessa atmosfera del precedente, è facile, si butta. Per questo i cassonetti sono pieni di materassi, perché ogni materasso è una storia d'amore naufragata, che uno non vuole rimmergersi in nuove storie con l'affrore di quelle precedenti. Per le palline, che basta dargli una lavata, fammi capire, come ci si comporta? Presumo, dipende poi dall'altro, da quello nuovo, dal rimpiazzo. Se uno sveglio è pronto, ci si può reinventare un'altra storia, no? D'altronde con le stesse persone... palline, con le stesse palline. Vabbè, una lavata, una asciugata. Sì. Sono nuove poi, fondamentalmente. Ma poi, diciamo, cambia semplicemente il contenitore, sei sempre tu, quindi non è che le usa qualcun altro, quindi esatto. È solo, è una cosa mentale, esatto, è un algoritmo, è una cosa mentale che in realtà le lega a una persona piuttosto che un'altra, e cambia semplicemente dove il telefono, dove è scaricata l'applicazione. Tu pensa che tristezza, capisci? Che tristezza, basta semplicemente cambiare un cellulare, cambia vibrazione, cambi uomo. Io credo che sia veramente alienante. Basta cambiare anche la suoneria che leghi a una persona e improvvisamente Chiaro. Cambia tutto. Però ci stiamo ricostruendo un mondo simbolico che in realtà incide profondamente nelle nostre emozioni. È inutile negarlo, perché è esattamente la stessa cosa che un mazzo di fiori, che una parola d'amore, quel particolare tocco nel touchscreen del tuo smartphone che dà alle tue palline quella particolare vibrazione che solo io ti so dare. È così, alla fine. Alla fine sì, con l'eccezione che credo che comunque il contatto reale più che quello virtuale abbia un senso maggiore, comunque sempre. Quando poi si eccede nell'utilizzo della tecnologia, si eccede nell'utilizzo dell'invio alla vibrazione, evidentemente c'è un problema sostanziale, cioè la capacità di non essere in grado di comunicare con l'altro se non attraverso un mezzo, quindi attraverso una barriera, perché è ovvio che ci deve essere anche tutto il resto. Se uno si basa, come molti uomini PlayStation fanno, quindi con l'utilizzo della tecnologia, è ovvio che poi alla fine trovi questi quarantenni, cinquantenni, insomma, che ciondolano in giro per il mondo e non hanno benché il minimo coraggio che approcciarsi ad una donna. No, a me viene la tristezza a pensare. A te dico, ormai ti conosco, sei spassionata, è un gioco divertente, ti fa ridere e parlarne più che altro. Ma tu immagina questo, in posti magari, non voglio sapere, fantastici del mondo, perché comunque fantastico è un posto alternativo a dove vivi tutto il giorno. Sarai in albergo la sera, cenato in locali esotici, visto cose indicibili, si chiude in albergo, si mette sullo smartphone a svaneggiare le tue palline che te ne stai a Modena, dove sei, non lo so, capito? Capisci la tristezza, poi magari facendosi magari un giro anche con qualcun'altra, no? Perché poi tutto è possibile, no? Tutto è possibile, perché poi non hai la certezza. Sì, di ma immagino che dici: scusa cara, aspetta un attimo, devo mettere in carica le palline alla mia fidanzata, dai. Ma guarda, niente di più facile. Chi non l'ha vissuta questa cosa? Ah, non so, io mai, non ho idea. Per cui ci sta che quando arriva una telefonata si avvicinano al televisore e dicono sì, ok, sto guardando la partita, in realtà stavano facendo gol da un'altra parte, capito? Vabbè, bisognerebbe che ci fosse un rapporto tale per cui nessuno avesse bisogno di fare telefonate di controllo, fine, questo dovrebbe essere così, capito? No, ma non era una telefonata di controllo, magari semplicemente dall'altra parte era una telefonata, una carezza, no? Un dire ok, ciao, come stai, tutto bene? Ah, quindi mi stai raccontando un episodio che ti ha fatto soffrire praticamente. Ah no, mi ha fatto ridere, mi dispiace per l'altra. Ma come hai fatto a capire che in realtà la partita era un'altra cosa? No, perché stavo giocando io la partita. Ah, tu facevi. No, stavo giocando io. Ah, qualcuno ti ha chiamato dire cara, voglio mandarti un dolce pensiero. No, qualcuno ha chiamato lui. Però si è messo davanti alla televisione, ha acceso la televisione e fa senso guardando la partita. A me è venuto da ridere perché tanto sapevo, però. Ah, beh, capito. Mi piace per l'altra, ma è un problema suo. Vabbè, dai, poveretto, è stato preso in contropiede in questo caso. Cioè, i casi, io sono convinta che o le sai fare o non le sai fare. Cioè, o sei caltro e le fai da furbo, oppure se sei proprio pirla. Beh, sì, cioè, in effetti meriti di essere beccato. Ci ecco. Vuole un po' di professionismo in questo, penso, sì, almeno credo, immagino. Credo, sì. Assolutamente, credo anch'io. Non bisogna c'è spazio essere per i parvenu. È una questione, secondo me, di onestà nei confronti di se stessi e di buon senso. Basta essere onesti con l'altro, con se stessi prima di tutto, con l'altro. E credo che questo forse a volte manca. Ma sai, ci sono serate in cui un uomo preferisce giocare a distanza con la PlayStation, con amici, piuttosto che manovrare le palline, che è la metafora poi di avere un rapporto con una donna. Ma perché? Perché è meno faticoso, molte volte voglia di fare cose che non siano faticose. Ma ci sta, il giusto deve essere un... è come, non so, quando vai in gelateria prendi un gelato, prendi, no? Tre gusti ben miscelati insieme e poi li mangi, no? Però con il giusto equilibrio, non così l'eccesso, no? Tipo 10 giorni vado via, non mi faccio sentire, vado a giocare con i miei amici, poi vado a fare quello che voglio e poi ritorni, poi attacchi la playlist, perché, o attacchi le playlist, no? Perché tu vuoi sempre un filo di sicurezza nel rapporto, e chi dà un filo di sicurezza spesso è costretto a mentire per tenerti in caldo, capito? Perché alla fine non vuole rinunciare a una sicurezza affettiva, sensuale, amichevole, di compagnia. Purtroppo c'è sempre, siamo abituati che ogni cosa che diamo a un'altra persona, affetto, amore, sesso, amicizia, deve avere una controparte, e non è più così oggi. Dobbiamo prepararci a slanci gratuiti e pretendere anche qualcosa di gratuito senza dar niente in cambio. La sospensione, questo si chiama sospensione a casa mia, allora non mi piace, non mi piacciono le cose sospese, o ci sei o non ci sei, ci sei bene, non ci sei, un problema mio, un problema tuo, comunque io ti chiudo, fine, cioè non sono radicale, sono estremista, sono cinica, ma devo preservarmi, e quindi a me queste situazioni di essere appeso, di sospensione non mi piacciono. Per cui a me un filo che mi tiene in caldo non me ne frega niente, o mi dai l'abbraccio o mi dai il camino, se no un filo che mi tiene in caldo non me ne frega niente, faccio prima a chiudere. E tesoro, ma se tu vuoi l'abbraccio sempre accesa, di cambiare pezzo di legno sempre, lo stesso ceppo non può mantenerti l'abbraccio sempre accesa, cambia ceppo più spesso possibile. Dipende dal tipo di legno, mio caro, perché l'ulivo è molto lungo come tipo di... cuoco, infatti gli ulivi nostrani sono attaccati da parassiti che li minano alla base e li stanno segando tutti, capito? Vabbè, c'è cara, visto che stiamo scivolando sulla consistenza del legno amoroso, aspetta che arrivi il tuo succedaneo plastico al contatto amoroso e vedi, può essere che magari hai trovato la via di soluzione a tutti i dilemmi femminili. Delle palline a distanza, un'app, una password che può essere cambiata. In fondo l'amore si sovrascrive rispetto al passato con le nuove tecnologie. Buon viaggio, ti saluto, ciao. Ciao. Informiamo i signori viaggiatori che il treno ripartirà tra poco. Il treno va. si ricorda ai signori passeggeri di non lasciare incustoditi i propri bagagli durante il viaggio. Una volta tanto, proprio per non dare adito a critiche, soprattutto da parte di coloro che giudicano mossa e motivata da un sottinteso e mellifluo provolonico indugiare ogni mia intervista sul treno, mi fermo a chiacchierare con un simpatico viaggiatore. Una persona che si capisce che viaggia in treno soltanto per ripiego, perché la sua vera natura, la sua profonda e genetica struttura lo porterebbe ad attraversare il mondo alla guida della sua automobile. All'inizio c'è un rapporto contrastato con un fratello, che poi sì. Ma da cosa, quali erano i motivi di questo contrasto? Il contrasto era praticamente che mio fratello aveva una fidanzata, una ragazza, come a Roma noi diciamo, non so se si può dire, una regna moscia. Sì, tipo figa di legno, una cosa del genere. Sì, una figa di legno, che praticamente qualsiasi cosa faceva, insomma, vabbè, ti piace? Sì, vabbè, insomma, vabbè, una così, vabbè. Io... durante un periodo tempo fa, insomma stiamo parlando di 15 anni fa, andai negli Stati Uniti. L'anno dopo gli dissi a mio fratello: dai, facciamo un viaggio insieme, che è bello, ti faccio dei posti dove sono stato io, non perdi tempo, non prendi fregature, andiamo tranquillamente, eccetera eccetera. Per allontanarlo da questa fidanzata l'avevi fatto? Ma lui se l'è portata dietro, il problema è che se l'ho portata dietro. E tu eri solo, tu eri solo? Io ero con la mia fidanzata, ex, cioè adesso moglie. Vabbè, però guardate, due coppie, sembra normale, no? Ognuno normale, posso... normale, ma il problema è sorto subito, a un certo punto lui si scordò la patente della macchina a casa in Italia. Quindi noi facevamo un cost to cost, senza un'altra persona che guidava, mi sono dovuto fare tutto io, 8.000 Guidavi solo te, e la fidanzata moscia non c'aveva la patente? Niente, non c'aveva niente, c'era solo i bagagli, niente, era solo una così, un peso, una palla al piede, proprio una rottura di palle mostruosa. Quindi sei stato costretto a guidare te per migliaia di chilometri? Sì, migliaia di chilometri da Stati Uniti, conosci? Se sarei sì, stato, sì, no? Sì, sì, certo. Strade lunghe che non sono mai. Strade interminabili. Sì. E io dicevo, vedi, devi guidare tu, sei stato un coglione, un deficiente, ti sei scordato l'unica cosa che mi dovevi scordare, vabbè. Poi fra l'altro se ti fermano senza patente non lo racconti, quindi... No, stavo ancora là in carcere. Non c'è nemmeno da provarci, capito? Niente, neanche un metro, che poi, ma fammi guidare qui che posto errato, qua è stata nascosta. No, perché c'è la pattuglia nascosta dietro all'altro. No, ma sei pazzo, infatti. Gli Stati Uniti è così, ti arrestano proprio. E le ragazze, insomma, che dicevano le ragazze? Le ragazze, la ragazza, poi la cosa bellissima era che io stavo davanti, perché guidando io sono la mia moglie adesso, attuale adesso, e loro stavano sempre dietro. Quindi a un certo punto durante il viaggio che succede? Qualsiasi cosa io facessi, qualsiasi cosa io decidessi, io e mia moglie insieme, anche insieme sembrava apparentemente insieme, dopo un po' si sentiva il ciccischio dietro, così si sentiva parlare così, come per dire, boh, c'è qualcosa, ah, io dico, che c'è, qualcosa, no, tutto a posto, vabbè. Era lei che lo fomentava. Era lei che lo fomentava, sì, tutto piano piano, perché mio padre è una persona tranquilla, calma, tranquilla, paciosa. Poveraccio, era diventato lo schiavo di questa donna. Lo schiavo. Ma adesso che armi aveva lei per tenerlo in questa condizione di soggezione? Indovina un po'. Campo fisico? Assolutamente. Era una bella ragazza, sì, una bella donna. Ragazza, insomma, aveva avuto 27 anni, 28 anni all'epoca. L'aveva fatto il suo zimbello praticamente. Se lo teneva per le palle proprio, tranquillamente. E lui si faceva trasportare. Ma lui non aveva avuto altre ragazze prima, come era così caduto in basso? No, non c'aveva avuto una storia importante come quella. Addirittura poi andò a comprare una casa insieme, quasi la convivenza sembrava che dovesse sfociare nel matrimonio. Poi invece saltò tutto per aria, perché causa anche questa cosa che adesso ho definito di raccontare. Forse apri gli occhi all'epoca. Quindi tu hai salvato, diciamo, la vita di tuo fratello? Assolutamente, alla fine. Sì, io glielo rifaccio sempre, ogni volta che lo vedo, dico, vedi, mostra con altra, grazie a me, grazie al tuo fratellino che ti ha fatto aprire gli occhi. Insomma, niente, lui camminando, facendo i chilometri, andando a vedere le sequoie, ti porto qua, ti porto là, ci sempre qualcosa dietro, sempre qualcosa dietro, a un certo punto. E la tua moglie non li sopportava, naturalmente? Mia moglie no, non sopportava, lei già mi aveva detto, questa non mi piace, questa è una così, è una che parla sotto sotto, piano piano, poi quando ti giri sorrisi smaglianti, sempre tranquilla, e poi quando ti giri, però loro non si rendevano conto che a parte io ci sentivo benissimo, perché... anche se fai pipì dentro un'automobile non è che te puoi nascondere tanto. Certo, e poi c'era lo specchietto, che guardavo dallo specchietto, vedevo le facce, le cose, no? Guidavo, poi in America il cruise control, vai tranquillo, vai a 90, 80, 70, cioè, fa due palle così e guardi, no? Poi parlavamo, sì, tutto bene, bello, ah sì sì, qua e là. Piano piano andavamo, insomma, a un certo punto gli dissi, andiamo qui a vedere la beach, andiamo a vedere queste spiagge che io già l'ho viste, il porto di San Francisco. Ah, sì, ma possiamo andare a vedere un'altra cosa? Vabbè. Ma cioè, qual era la sua proposta? Non c'era una proposta, perché loro non conoscevano nulla. Io avevo già visto tutto, avevo le mappe, avevo pianificato tutto, non c'erano i navigatori all'epoca, quindi carta, tutto scritto sulla strada, i motel prenotati prima, perché non era come adesso che tu prendi, sai. Non c'è, certo, non c'era TripAdvisor, chiaro. Assolutamente, no, non esisteva niente, non niente, quindi tutto programmato, quindi ogni qualsiasi cambio di rotta a me mi creava un problema. Dicevamo, non andiamo a dormire, andiamo, rischiamo che dormiamo in macchina. Infatti una volta dormivo in macchina perché era tutto occupato, c'era una festa del paese, diciamo, di quel paesino, quella cittadina, c'era una ricorrenza, non mi ricordo, e dormivo in macchina perché non trovavamo neanche un albergo, un motel vuoto, e quindi rimanemmo a dormire due notti. Quindi la notte ho anche sopportato fratello con quella, sì, fidanzata insieme. Sì, sì. Beh, terribile, infatti. Una delle notti più brutte della tua vita, immagino. E infatti quello è stato uno dei motivi dell'accumulo dello sbrocco finale, quello. E magari la notte stava abbracciato, picci picci pucci, sì, pucci, sì. Picci picci pucci pucci, e io stavo davanti col cambio, col pomello cambio fra le gambe, mezzo, certo, mezzo, appunto, dico, perché poi loro stavano dietro, stavano pure più comodi. Ma perché dietro loro e voi avanti? Non si poteva scegliere diversamente? Beh, perché era diventata ormai una cosa, io sono stato 45.000 ore davanti, c'era un diritto acquisito, lei doveva stare, sì, comoda dietro. Sì, sì, ero rimasto, probabilmente ero incollato al sedile là, io tiravo giù, ho schiamato, ho dormito così. Loro la macchina era grassa, assolutamente era tipo un monovolume, una cosa grossa, quindi stavamo comodi con tutti i bagagli, perché poi abbiamo dormito dentro il giardino di un americano, di un italo-americano che ci disse venite a dormire qua dietro, perché io non c'ho posto a casa, sennò ci avrebbe pure fatto dormire a casa. Pensa che gentili, poi un gestore di una pizzeria, gli spiegammo il problema, ma venite qua dentro al giardino. Vabbè, almeno vi ha dato la possibilità di dormire sicuri, perché almeno sennò... bravo, sicuro, quei bagagli sempre tutti abbracciati, già è molto in quelle situazioni, già molto, schifo. Poi noi siamo sempre prevenuti italiani, quindi su queste cose siamo abbastanza. Vabbè, allora questa è stata una notte da incubo, poi? Da incubo, poi ricominciamo a camminare, facciamo, andiamo qua, andiamo là, io sto stringendo, ma abbiamo fatto veramente 8-10 mila chilometri, cose così, quindi sempre guidato te. Sempre guidato io, cioè avevo i calli sulle mani, io poi sono un musicista, sono il violino, sono un violinista, sono tornato a casa con la tendinite sui polsi per girare il volante e i calli sulle mani. Quindi invalidità professionale, ti, sì, hanno ucciso, sì, la capacità, sì, di esprimerti col violino, ma è terribile. No, terribile. Io la settimana, 10 giorni dopo, ritornati a casa, non potevo toccare lo strumento perché mi faceva male tutto. Merita una punizione. Ma qua la punizione gliel'ho data, perché quello che è successo poi è eclatante. Cosa è successo? È successo che a un certo punto, andando, stavamo a San Diego, mi sembra, sempre con questo blu blu blu, sapita dei fascioli dietro, blu blu blu blu blu blu blu dietro, che si è sentito, andiamo là, è bella San Diego, vi faccio vedere, poi andiamo al confine, c'è il Messico, c'è sta Tijuana, Tijuana passavate, bravo, Tijuana, andiamo a vedere il centro commerciale, da Tijuana per vedere il centro commerciale, comunque sì, beh, è una città interessante, era interessante di passaggio, sì, di passaggio, ma poi San Diego era fantastica, era bella proprio la città sul mare, bellissima. A un certo punto sto blu blu blu blu blu blu, dopo giorni, a Gianlu, io a un certo punto inchiodo la macchina in mezzo a una piazza, comincio a smadonnare, non a bestemmiare, perché non bestemmio, non è il mio santo. Cioè, ti sei messo a urlare? Parolacce, urlava, strillavo, mi avete rotto il capo, avete fatto qua, mi avete fatto qua una settimana, 10 giorni che mi fate così, inchiodo, apro la macchina, lo sportello della macchina, apro lo sportello della macchina del mio fratello, lo prendo e lo butto di fuori dalla macchina. Ma avete rotto il vi lascio qua di fuori, gli ho preso tutti i bagagli, ho buttato tutto. Ah, hai fatto proprio la sceneggiata. Gli hai buttato le valigie tutto per terra in italiano. Beh, sai, è successo che a un certo punto si è fermata la polizia, mi stavano per arrestare a me. Chiaro, vedo una cosa. Pensavano che io stessi aggredendo quella persona, che non avendo visto la situazione, io seguitavo là in italiano. E mo qua, e mo là, e mo su, e mo giù, e perché qui, e perché là, gira a destra, e va a sinistra, e vai su, e va giù, montagna, al mare, eccetera. Ma avete rotto. Insomma, a un certo punto io poi l'ho lasciato là, a lui e a lei. Ma dove era esattamente? A San Diego le lasciate? A San Diego, poi dopo ho naturalmente calmato, passato lo sbrocco. ha detto mia moglie, guarda che tu non c'ha la patente, ma dove cazzo lo lasci? Ma mica pontare. Ah, la macchina è rimasta loro? No, l'avevo presa io l'avevo lasciata là, l'avevo fatto scendere e me l'era andato io, ho detto vatti a affitta la macchina te e tornati quando cavolo ti pare, vai dove ti pare, vatti a vedere quello che vuoi. Poi dopo ci ho pensato che alla fine non c'era la patente, quindi non avrebbe mai potuto affittare la macchina. E sono dovuto tornare indietro, dopo un'ora, ma dopo mi sono dovuto scalmare, ho sbollito. E loro dove stanno? Lì a aspettare sempre lungo la strada? Sì, come se stessero aspettando la corriera. L'ho ritrovato nello stesso punto dove l'ho lasciato, con le valigette messe lì, con lei con la testa bassa, lui così con le braccia conserte. Io ho fatto il giro, dico, senti, che vogliamo fare? Vogliamo seguire tutti una settimana o... oppure che vi sarei messo in testa? No, c'è ragione, non ci siamo regolati, non mi rendo conto. Adesso Brocchi si rompe un circuito e ritorna la calma. Infatti poi la settimana dopo siamo stati benissimo, qualsiasi cosa veniva detta, veniva proposta, e ma che pensi? Ma come bene, andiamo. Beh, sai, la paura di rimanere a piedi, abbandonati in mezzo al deserto in California, non è che proprio era la cosa più divertente del mondo. Infatti, ma il bello poi una cosa importante, Gianluca, io gli avevo dato in mano, visto che non fai una minchia dietro e sai solo a rompere le palle prima del gol. Gli lasciai in mano la telecamera, la videocamera, quella con i Super 8, quelle piccolette con le cassettine cicciottelle che andavano. Allora, ma lo sai che è riuscito a registrare? Niente. Ma nemmeno No, si addormentava. Nemmeno ha fatto i filmati. Abbiamo tutti i video che si vedono i piedi. Perché lui si addormentava, si abbioccava, abbassava la testa e si vedeva la telecamera che andava in mezzo alle gambe. Buon viaggio. Grazie. Per questo vai in treno, perché andare in macchina ti ha passato la voglia, penso. Assolutamente. Ciao, grazie, buon viaggio. Ciao. Grazie a te. Ciao. Si avvertono i signori passeggeri che il treno effettuerà una breve sosta per le informazioni sul traffico. Restate in ascolto. Il treno va. Si informano i signori passeggeri che fra qualche minuto passerà in carrozza il personale del treno per offrirvi un piccolo spuntino. Ed ecco infine l'accorata audiolettera. Questa volta mi scrive una donna e mi allega persino una sua fotografia, probabilmente per darmi certezza e prova di quello che lei mi scrive. E devo dire che è una donna bellissima, ma non bella nel senso in cui si dice bella perché bella dentro, no, è proprio bella. È una pin-up, è una donna appariscente, è una donna formosa, è una donna dalle forme meravigliose e dall'aspetto conturbante. Insomma, potrebbe essere benissimo messa sulla copertina di un rotocalco che dà modo di rappresentare una nuova fiamma dello spettacolo. Potrebbe essere una soubrette. E qual è il problema? Qual è il limite? Se ella è bella, appariscente e rappresenta in fondo quello che è il modello nascosto dell'attrattiva sensuale per ogni uomo, perché non ha diritto di esprimersi? Lei l'ha fatto, ma l'ha fatto forse con la persona sbagliata. Caro Gianluca, tu che cerchi sempre di ridurre all'osso le relazioni uomo-donna, voglio proprio sapere che cosa pensi della mia sconfitta amorosa. Sì, la chiamo così, una sconfitta che si è compiuta un mese fa. Io ho 29 anni, lui 32. 2 anni fa ci siamo conosciuti tramite amici comuni ed è stata subito grande attrazione. Lui aveva un lavoro già da qualche anno, io in questo un po' meno stabile. Ho fatto un po' di lavoretti, dalla barista alla commessa mentre ancora facevo l'università, quindi lui aveva più entrate di me, diciamo così. Ma questo non è mai stato un problema tra noi. Quello che ci ha immediatamente dato una enorme intesa è stata l'attrazione fisica. Il sesso con lui è stato fantastico dall'inizio e per 2 anni mi sono sentita pienamente appagata come donna, come mai prima. Parlo sia di qualità che di quantità. E quando stai così bene fisicamente con una persona, è inevitabile che te ne innamori anche. Per farlo accetti anche di mettere in ombra gli aspetti di te che percepisci possano piacere meno a lui. Lui, invece, non ci ha pensato affatto a venirmi incontro e sono stata prevalentemente io ad adeguarmi a lui, probabilmente sbagliando. I pochi casi di litigi in questi 2 anni sono state alcune scenate di gelosia da parte sua, scatenate da mie foto su Instagram o dal modo in cui a una cena avevo dato corda ad un suo amico, a suo dire palesemente interessato a me. Ma in questi casi, passata la sfuriata, si rifaceva pace in poco tempo. L'altro motivo di scontro è stato quello che definirei ideologico-sociale. Lui frequentava amici, diciamo, alternativi e un po' artistoidi, e vedeva tutta la realtà in questa chiave antagonista, cosa che io ho cercato di rispettare anche se non la condividevo. Al contrario, lui a volte mi ha fatto sentire in profondo disagio quando ironizzava o criticava palesemente alcuni miei gusti televisivi. Sai, le cose stupide che si vedono le ragazze in TV sul make-up. Oppure programmi di intrattenimento che tra l'altro mi sono ben guardata dall'imporgli. Ecco. Io ho sempre convissuto con questa sensazione sotto pelle che lui si sentisse in qualche modo superiore a me, o migliore. E ora che ci penso, ho l'impressione che questo mi abbia impedito di sentirmi veramente me stessa con lui. E come al solito, in onore a un pregiudizio che ahimè colpisce anche le persone belle, la persona bella deve anche sempre dimostrare di essere intelligente. Chissà perché l'intelligente non viene chiesto di essere bella, visto che le due qualità devono andare pari passo. E quindi questa donna, che per natura è stata baciata dalla fortuna di avere un aspetto fisico che è all'insegna della sensualità, sarebbe stata rappresentata nel marmo di un artista se fossimo in altri tempi, si trova a cercare il compagno ideale in un uomo che, perlomeno all'apparenza, perlomeno nella costruzione fantasmatica, perlomeno nell'intenzione, è un intellettual artista. E quindi lei, poverina, in quanto bella, frequenta gli ambienti dell'intellettual artista che naturalmente la snobbano, perché lei in quanto bella non può apprezzare telefilm, non può apprezzare le fiction televisive, non può entusiasmarsi per i programmi pop della televisione, no. Lei deve essere bella, ma deve essere anche all'altezza del loro squisito senso artistico. E me, la bella poi dovrà fare una scelta. Ma a parte questo, eravamo perfettamente affiatati anche nella gestione della quotidianità. Io vivevo per conto mio e andavo a casa sua solo nei weekend, dove praticamente non uscivamo mai dal letto. Poi, 2 mesi fa, lui comincia ad apparire strano, mi dice che mi deve parlare e per farla breve mi vuota il sacco. Mi dice che sente troppe differenze tra noi, che lui ha un'altra visione delle cose, che la commediola che abbiamo visto al cinema, che a me è piaciuta da matti, a lui ha fatto schifo. Rimango allibita. Eravamo stati a letto in grande intimità appena il giorno prima. Mi spiego che è da mesi che ci pensa e che insomma non se la sente di andare avanti. Tra me e lui c'è un solco che il sesso non basta a colmare. Gli butto dentro un borsone le poche cose sue che lui aveva da me e lo saluto freddamente. Dentro di me un misto di stupore, delusione e rabbia. Ora ti chiedo, vedi, hai appena sentito una storia che mi sembrava avere le condizioni ideali per un maschio, almeno per come lo dipingi tu. Sesso superlativo per ammissione reciproca, nessuna convivenza, frequentazione solo nel weekend, ampia autonomia, niente impegni familiari imposti e così via. Eppure non è bastato, se devo credere alle sue parole, perché voleva avere anche un'intesa mentale piena. E allora, eccoti qui. Da una parte un maschio che apparentemente ragiona come una donna e una donna che ragiona come un maschio. Tu, come te la spieghi? È il paradosso che questa scelta in realtà lei non l'ha fatta lui, lei l'ha subita. Lei era bella, lei amava quell'uomo, lei per quell'uomo aveva in mente una attrazione di tipo sensuale, di tipo fisico, di tipo amoroso, di tipo passionale. Era la passione della sua vita e le andava bene così, ma lui no. Lui in fondo, dentro la parte più riposta del suo animo, pur probabilmente approfittandone larghe mani e della cornucopia di sensualità che lei gli offriva, si svergognava un po' con i suoi amichetti intellettuali, quelli che strimpellavano la chitarra, quelli che andavano ai concerti, che facevano letture più impegnate, che guardavano film d'essè e che ridevano dei gusti così popolari, così rozzi di questa donna, tanto che alla fine l'ha costretta a lasciarlo. Alla fine sono lasciati, per lui è finita la festa, ma anche per lei è finita, con la frustrazione che in un mondo come questo non si può avere il diritto di essere belli senza appartenere comunque a una cerchia intellettuale che ti guarda, ti giudica e ti soppesa. Si avvisano i viaggiatori che il treno da delle 11 ripartirà domenica prossima dalla stazione di Radio 24. Si ricorda che è attivo il servizio di prenotazione via mail all'indirizzo il treno da @radio24.it.